and girls, your attention, please. Presenting a new exciting radio program. Tutti più buoni, tutti più carini. Oggi nel mondo comandano i bambini. Mamma, chiedo asilo. Bentornati a Chiedo Asilo, un saluto da Kappa e un saluto da Drago. Ciao. Ciao, benvenuti a Chiedo Asilo e bentornati anche all'asilo proprio, sì, all'asilo dove regna la regressione, l'asilo Italia. Sì. È uno dei cardini sui quali si regge la regressione, cioè su tutto il pianeta e anche in Italia, è il ricorso all'emozione come valore positivo. Beh, certo, le emozioni sono sentimenti sinceri, non mediati, le emozioni sono vere. Ma non è detto, perché si possono anche simulare le emozioni, come ben sai. Però in ogni caso la maledizione dell'emozione colpisce continuamente. E ci sono dei geni artistici come Frank Zappa, David Foster Wallace, Terry Gilliam, per citare i primi tre che mi vengono in mente, che non hanno mai conosciuto successo popolare proprio perché dicono che sono troppo cerebrali, poco emozionanti, non emozionano, non toccano. Non so, Claudio Baglioni, Jacques Prévert, Frank Capra, loro sono più vicini al cuore della gente. A parte che sono tutti e tre morti. Sì, ma scusa, il bambino Baglioni no, non è morto, si è metallizzato, ma è ancora vivo e cantante. Comunque viva l'emozione. Vabbè, dai. Basta non esagerare però, perché adesso sembra che i democratici abbiano perso le elezioni di medio termine per colpa di Obama, che non è più in grado di emozionare. Pensa cosa è successo. Così si dice. È giusto, perché ha vinto le presidenziali proprio perché ha saputo emozionare tutti, capito? Ma anche al di là degli Stati Uniti, ma era certo. Bravo anche, adesso Obama perde perché ha smesso di emozionare. Ma che cosa c'è di strano? È normale. Emozioni, vinci, non è come Kid Factor o X Factor. Ho capito, capo, ma perché sei in mutande? Deve essere la taglia sbagliata di pantaloni. Ma tu non ti preoccupare, c'è il grembiulino, vai avanti. Vabbè, è strano che si usino le emozioni per valutare un politico, Kappa. Scusa, secondo Moby, il grande DJ newyorkese, sì, i Tea Party hanno emozionato gli americani mentre Obama li ha fatti sbadigliare. Senti cosa scrive nel suo blog. Idealmente la ragione e la logica dovrebbero trionfare sopra l'emozione, ma purtroppo le cose non funzionano così. Chi vende più dischi? I rapper arrabbiati o quelli pensierosi? Quali film guadagnano di più? La logica può convincere, ma solo l'emozione può motivare. Grande bambino Moby. Ma scusa, la logica può convincere, ma solo l'emozione può motivare. Sì, sembra una frase della bambina Anna Tatangelo a X Factor. Invece è una critica mossa al bambino presidente degli Stati Uniti. Vabbè, anzi, ma, scusa, ex bambino. Se le cose vanno così hai poco da scaldare. Ma secondo me sono tutte grandissime stupidaggini. Obama è nero, sa come infiammare la folla, è l'erede di Martin Luther King, di Malcolm X, di Nelson Mandela. Vabbè, ma se non arriva, Drago, non arriva, ma c'è poco da fare. Come non arriva? Ma l'hai sentito il bambino Obama quando è in forma per davvero? Ma senti qua. In small towns and in big cities you came together to stand up and say that we are one nation, we are one people and our time for change has come. Avete capito? Il tempo del cambiamento è arrivato. Basta con finocchi cotti in mensa. Basta, non ne possiamo più. Siamo tutti d'accordo? Siamo tutti uniti? E allora basta con finocchi cotti. Ma per ottenere qualcosa dobbiamo stare tutti uniti. Together, ordinary people can do extraordinary things. Perché se dobbiamo mangiare finocchi cotti, che almeno ci fosse un filo d'olio, no? Chiedo asilo! Come di consueto, occupiamoci della bambina ministra Gelmini, sempre al centro dell'attenzione qui all'asilo. Vogliamo chiedere al bambino Sgarbi che cosa ne pensa? No, dai, ma lui l'ha già detto mille volte cosa ne pensa. Ma dai, quindi... chiediamolo. Ma no, ma l'ha già detto lui che la Gelmini... La Gelmini, ecco, non è un ministro dell'istruzione. Ma lo so, Vittorio. È un buon ministro della funzione pubblica. Sai chi è Gelminello Alvi? Ma sì, lo so. Lo conosci o no? Sì. Sai chi è? Ma stai calmo. Gelminello Alvi è un intellettuale di centrodestra, intelligentissimo. Intelligentissimo, va bene, ho capito. E sarebbe un ottimo ministro. Ma sì, sì. E tu sei un pirla. E tu sei un pirla, vedi? Vabbè, eh? Contento, ma finisce sempre così, lo sai già. Dai, piuttosto chiediamo a questa bambina, che è stata compagna di università della ministra Bambina. Bambina, tu conoscevi la bambina Gelmini prima che diventasse ministra, vero? Ci siamo conosciute a giurisprudenza, perché io ho studiato, ho preso la prima laurea a giurisprudenza a Brescia con lei, eravamo studenti insieme, quindi mi ricordo di Maria Stella molto bene, perché insomma ci incontravamo nel corridoio della facoltà, che era di quattro stanze, una piccola facoltà, e era una ragazza molto mansueta, molto buona. Se devo essere sincera, non particolarmente brillante negli studi e basta, e neanche particolarmente, come dire, non ho mai vista avere delle... Allora non coltivava, diciamo, alcuna passione politica, alcuna. Non ha mai fatto interventi di natura politica che io ricordi. Vedi che ha ragione il bambino Sgarbi? Meglio il bambino Gelminello Alvi. Sì, ma chi è davvero Gelminello Alvi? Chiediamolo al nostro primo della classe. Primo della classe, chi è Gelminello Alvi? Gelminello Alvi è nato in Ancona, in De Marche, in 1955 e ha sempre lavorato in di grandi banche svizzere come BRI in Basel, in Basilea. Ah, ha anche scritto per Corriere di Sera, Repubblica di Sera, Repubblica. Giornale di Sera, di mattina. Ma chi se ne frega del Teufel, fammi finire! Primo di classe. Non so altro di Gelminello. Ah, sono 10 franchi. Svizzeri. No, ma come? Il sapere è gratis. Scusa. No, sono 10 franchi svizzeri. Ma, scusa, primo della classe, e se andavo su Wikipedia c'erano le stesse cose ed era gratis? Ah, sì, ma devi di avere di computer. È logico. E devi avere di abbonamento di Questura. E beh, per forza. E con io invece non avete bisogno di niente, solo di 10 franchi svizzeri. Vabbè, vieni qua. Anche schön. Bitte schön. Chissà perché gli svizzeri ci fregano sempre noi italiani. Oh, è il momento del quiz, non Drago, saltellare, sei non perché? Saltellare, perché? Mi viene mal di mare. Dai, vabbè, forza. Il quiz nessuno sonoro. Indovina il quiz sonoro che è stato proposto la scorsa settimana. Eppure la risposta è facile. Facile. Dovete dire quante volte viene ripetuta la parola Repubblica in questo bailamme di voci. Tu hai detto chi ha scelto la forma. Detto, non lasciami scelto parlare e taci. Hai detto taci. Non ha scelto la forma. Taci, il taci, della taci, taci, sta taci, la taci, taci, taci, laico. Taci, taci, taci, taci, taci, taci, taci, taci, taci, taci, taci, taci. Allora, quante volte è stata detta la parola Repubblica? Repubblica, perché quante volte taci, si sa, sono 22. Repubblica viene detto molto meno, ma attenzione, la parola deve essere pronunciata per intero e non parzialmente. Se sentite uno che dice è compito del presidente della Re e poi si ferma perché il bambino Sgarbi lo interrompe, quello non conta. Quindi dovete davvero affinare l'udito e contare le parole Repubblica. E contatele bene, perché ricordate, per chi vince c'è in palio un Wunderwaffer. Wunderwaffer. Sì, una buona merendina. La compagna. La compagna. Wunderwaffer. Wunderwaffer. Wunderwaffer. Wunderwaffer. Wunderwaffer. Wunderwaffer. Wunderwaffer. Wunderwaffer. Wunderwaffer. Wunderwaffer. Accidenti, mi piacerebbe essere un ascoltatore e partecipare anch'io al quiz del Wunderwaffer per poterne vincere uno. Ma scusa, uno. Ma mica bisogna essere per forza un ascoltatore. Perché? Abbiamo qui dei sacchi. Prendine uno. Può. Ma sì, dai. Se poi vincono in tanti bisogna spedirli tutti. Vabbè, dai, uno più uno meno. Possiamo uno. Dai, dai, prendilo. Non so se ti piace. No, a me piace. A me questo genere di cose di solito sai, si attacca al palato. No, buono. Ma buonissimo. Sì, però... Cosa? Io mi sento un po' strano. No, Drago, no, io, per favore. Io sto per vomitare. Cos'hai? Drago, il Wunderwaffer. Vabbè, ma è solo il Wunderwaffer che ti è andato di traverso. Non mangiate il Wunderwaffer. Sai che facciamo meglio a cambiare premio qui, però. Non mangiate il Wunderwaffer. Tutti più buoni, tutti più carini, oggi nel mondo qui. umani. E mandate le risposte al quiz a chiedoasilo@radio24.it.